9 in punto. La versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, oggi lunedì 8 marzo ed è all'importanza delle donne nell'economia dedicata alla puntata. Lo spunto sono i molti dati e gli approfondimenti che vengono da tre libri che vi consiglio caldamente. Il primo è edito dal gruppo 24 ore e viene proprio oggi presentato dallo stesso direttore del Sole 24 ore Gianni Riotta, nonché da una delle due autrici. E il titolo di questo libro è Rivoluzione Womenomics, è un neologismo che unisce insieme le donne e l'economia, e le due autrici sono non sono italiane, sono Eva Wittenberg Cox, che è presidente di una delle principali società di consulenza sulle tematiche di genere e da molti anni protagonista del dibattito sulla promozione e l'apertura nelle imprese, nel mondo del lavoro delle donne. Poi Alison Maitland, che è stata a lungo giornalista del Financial Times, esperta anche qui di management, di risorse umane, e si occupa da sempre anche lei di questo tema. E oltre a questo volume ci occuperemo di altri due libri che vi invito a leggere caldamente. Uno è di Caterina Soffici, il titolo è Ma le donne no, come si vive nel paese più maschilista d'Europa, cioè in Italia, ed è di Feltrinelli, prefazione di Nadia Urbinati. E il terzo libro è un libro di Angela Padrone, si intitola La sfida degli outsider, donne e giovani insieme per cambiare l'Italia, con la prefazione di non posso dirlo, perché come al solito c'è la regola stupida per la quale non mi posso occupare di niente che abbia a che fare con le regionali, ed è candidata alle regionali in una grande regione del centro Italia. L'autrice della prefazione e la presentazione di Michael Martone, in questo caso l'editore è Marsilio. Che cosa ci dicono questi tre libri? Una serie di cose convergenti, molto convergenti. Io mi limiterò ancora in un minuto e mezzo a richiamarne solo alcune brevissimamente, perché quello che colpisce di questi tre volumi è il fatto che sappiamo cosa dobbiamo fare, perché in realtà le proposte sia del libro che ha Rivoluzione Women Economics, che ha una occhiata internazionale comparata e che vi invito a leggere perché è pieno di buoni esempi di grandi imprese e di errori compiuti in grandi imprese invece da non commettere più, è un vero e proprio manuale di management da questo punto di vista, quindi forse dà anche un po' fastidio a chi non ama molto i libri di management, però alla fine le indicazioni a livello internazionale per i diversi paesi che sono avanzate in Rivoluzione Womenomics sono le stesse in realtà che voi trovate alla fine del libro di Angela Padrone e molto analoghe a quelle che trovate nel libro di Caterina Soffici, e quindi evidentemente noi sappiamo cosa bisogna fare, il problema è la volontà di farlo. Quali sono i tre pilastri per le quali bisogna assumere una mentalità proattiva, cioè sia dal punto di vista delle regole pubbliche sia dal punto di vista delle imprese private, aprire a più spazio alle donne? Sono tre argomenti di fondo del libro di Eva Wittenberg Cox e di Alison Maitland, è che innanzitutto noi tendiamo a dimenticare che il più della formazione del capitale umano e del talento oggi è nelle mani delle donne, cioè la quantità di laureate e anche i laureati in materia tradizionalmente che fino a pochi anni fa non erano quelle prescelte purtroppo per una influenza culturale malevola dalle donne, cioè le materie scientifiche, ingegneria eccetera, oramai la maggior parte delle laureate e delle qualifiche avanzate nei paesi dell'Ocse saranno sempre più al femminile, quindi prima ragione per cui noi sprechiamo talento. Seconda ragione, ancora più dimenticata, esiste un talento manageriale, cioè una leadership al femminile che è distinta da quella maschile e che oramai tutte le maggiori i maggiori studi internazionali comprovano portano a migliori performance le aziende, e questo è quello che il management maschile e la tradizione influenza maschilista non capisce. Le donne non solo sono in grado di indirizzare le imprese e risolvere i problemi come gli uomini, lo sanno fare in maniera distinta perché esiste una biodiversità da questo punto di vista ed è confermata dall'epistemologia cognitiva. Noi non siamo affatto uguali, quindi la parità tende a, per così dire, dimenticare in nome dell'illuminismo e del russoismo che non è solo per parità, cioè per i talenti, che noi dobbiamo aprire spazio, ma esiste una diversità che va invece premiata, perché la leadership al femminile è in grado di risolvere meglio i problemi nelle imprese, siano esse private o pubbliche, e su questo c'è un'enorme mole di dati che è molto interessante. E poi esiste una terza ragione. La terza ragione è che a differenza di quello che in paesi impregnati di una cultura retrograda e stupida come l'Italia, non è affatto vero che le donne devono lavorare meno e devono fare meno carriera, devono avere meno riconoscimenti perché c'è questo piccolo problemino che loro si devono occupare dei figli della famiglia. Esattamente vero il contrario. Tonnellate di studi in tutti i paesi avanzati, in quelli meno avanzati, ci dimostrano oramai che laddove è più elevata la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, laddove esse sono in grado di ottenere posti di maggiore responsabilità, lì è il tasso di fertilità maggiore. Lì, in paesi come il nostro, dove lavorano 10, 20, 30 punti in meno di quanto capita nei paesi scandinavi e oramai persino in paesi come la Spagna, che ci ha superato in pochi anni, che partiva da un tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro molto più basso del nostro, quelli sono i paesi in cui la fertilità è maggiore. Quelli in cui le donne lavorano meno, con la scusa, dicono i maschietti, che serve a fargli fare i bambini e fargli stare a casa, sono in realtà quelli in cui le donne ritirano di più sul proprio orizzonte vitale la scelta decisiva di fare, tra l'altro, anche figli. E allora di qui tutta una serie di conseguenze. Vedremo le proposte, ce ne sono di politiche pubbliche e a me convince molto, lo dico subito, la questioni scelte come quelle che hanno fatto la Norvegia a tempo. La Norvegia ha deciso di per legge dire alle quotate: voi entro 4 anni portate al 40% dei posti nelle consigli di amministrazione delle società quotate le donne, e questo ha portato degli effetti clamorosi. Io sono per rottura di quota a tempo, non capisco le donne che su questo dicono: ma no, ma noi vogliamo andare avanti per merito e non vogliamo le quote, quando la realtà è che per merito non vanno avanti. Poi esistono misure che riguardano le legislazioni pubbliche per la famiglia, l'innalzamento del numero di mesi e della percentuale di stipendio per il quale gli uomini devono restare a casa quando fanno figli, per esempio, e non solo le donne, ovviamente, perché questo significa riequilibrare il meccanismo. E da questo punto di vista c'è molto che riguarda anche le imprese private, però per quello che riguarda la leadership delle imprese private non è solo questione di legge, è questione di cambiare le teste, e le teste degli uomini in questo sono teste stupide, perché impregnate di tare non tanto culturali, ma che si risolvono in un danno per l'economia, in una minor crescita per l'economia, in un minor spazio, non solo per un tasso di sostenibilità, meno figli, ma soprattutto per la performance delle imprese, che a chiacchiere sono bravi a solo loro a guidare parlando dei centimetri di gonna delle loro colleghe. Fine della mia introduzione, d'ora in poi farò solo il semaforista. Gli ospiti della giornata sono l'autrice, appunto, del libro Male donne no, Caterina Soffici. Buongiorno Soffici. Buongiorno. Poi Angela Padrone, giornalista del Messaggero, autrice dell'altro libro che vi ho citato, La sfida degli outsider. Buongiorno Padrone. Buongiorno, buongiorno a voi. Poi Monica Lucarelli, che è il presidente del comitato presso l'Unione Industriale di Confindustria di Roma, è il comitato femminile plurale. Buongiorno Lucarelli. Buongiorno. E Daniela Scaramucci di McKinsey, quindi stiamo parlando di una delle grandi sigle del social consulting mondiale, per il problema specifico dello spazio delle donne nelle imprese private e nella loro leadership. Direi di cominciare dall'esempio concreto di Monica Lucarelli, quindi Confindustria a Roma. Qual è il vostro bilancio? Cosa riuscite a fare? Cosa si può fare di più? Guardi, la sua introduzione rispecchiava assolutamente il programma del comitato che io presiedo dal 2006, che mi batte esattamente per tutto ciò che lei ha detto, a parte le quote rosa, che ovviamente in Confindustria è un tema un po' delicato da affrontare, e anche però, io da però diciamo mi faccia dire, Confindustria fa eccezione perché il presidente è una donna, si chiama Emma Marcegaglia, ha messo una amministrazione delegato da qualche settimana al gruppo Sole 24 Ore ed è una donna, quindi diciamo qualcosa lì si vede un po' più che nel resto d'Italia. Mi scusi, l'ho interrotto. Ma tendenzialmente Confindustria è sempre avanti, no, diciamo, adesso non esageriamo, stesse. Però no, è avanti, e quindi questo lo dimostra, però noi dobbiamo andare a vedere ovviamente lo staccato delle aziende, di cui il 90% in Italia sono piccole, piccolissime imprese, e quindi mentre le grandi imprese, ma questo Daniela Scaramuccia, con la quale collaboriamo da un po' di tempo, lo saprà dire meglio di me, le grandi imprese vengono da politiche di valorizzazione della diversità, diversity management, e quindi ce l'hanno un po' nel DNA, anche perché molte sono multinazionali e quindi lo importano in Italia partendo dalle esperienze estere. Sulla piccola e media impresa c'è ancora sicuramente molto da fare. E noi tutte le cose che, tutti i progetti che portiamo avanti, il comitato è nato nel 2000, quindi quest'anno sono 10 anni di attività che facciamo su queste tematiche, le abbiamo sempre cercate di fare in collaborazione con le istituzioni locali e nazionali di competenza, e questo perché la problematica non può essere ovviamente affrontata soltanto con un occhio al mondo delle imprese, ma deve essere affrontata a 360 gradi, perché riguarda la formazione, riguarda, come lei diceva in apertura, il numero di donne, la percentuale di donne che scelgono di fare ancora di prendere facoltà umanistiche, non perché sia una loro attitudine, perché poi le attitudini vanno assolutamente rispettate e anzi incoraggiate, ma ancora per barriere culturali, perché si pensa che facoltà come ingegneria, come quella che io ho finito nel 98, siano ancora, portino ancora a lavori maschili, e questo in Italia c'è ancora, e quindi indubbiamente su questo bisogna lavorare molto. E poi perché in parte si pensa ancora che nell'assumere una donna si assuma una persona che poi avrà dei momenti di lontananza dal lavoro, senza considerare che proprio il fatto di essere madre, di imparare a gestire tante cose contemporaneamente, dà una flessibilità mentale, una capacità di sintesi che in parte gli uomini non hanno. Quindi su questo noi ci stiamo battendo con progetti concreti, facendo ogni anno un premio che valorizza proprio le aziende che si impegnano in questo, e puntando alla valorizzazione delle risorse umane e non soltanto delle donne, perché per noi il vero risultato sarà il giorno in cui non dovremo più fare una differenza, parlare di diversità di genere, ma vedere come il valore della diversità in realtà porta a uno sviluppo economico e del territorio e uno sviluppo della competitività delle imprese. Temo che però di qui a quel giorno lo spazio sia ancora lungo, per così dire. Daniela Scaramuccia, questa storia che la leadership femminile nelle imprese, laddove ha più possibilità di realizzarsi, cioè nelle aziende in cui c'è una maggior percentuale, cioè una percentuale meno scandalosamente discosta da quella che dovrebbe essere per rappresentare la realtà dei campioni demografici, di donne in posizione di responsabilità, questa cosa che in quelle aziende le performance sono maggiori, è una cosa che in realtà nota solo agli specialisti delle questioni di genere nel management, però io sono sicuro che molti a casa dicono ma che cosa state dicendo, la prendono come una specie di affermazione perché è l'8 marzo, non un'affermazione che dovrebbe valere 365 giorni l'anno per fare un miglior bilancio e per fare poi migliori strategie. Da che cosa dipende? Guardi, innanzitutto buongiorno a tutti, ma in realtà dipende da un concetto molto semplice, quello che diceva lei prima, che la diversità è un valore in principio, quindi quando noi ci troviamo con aziende che non sono rappresentate nella diversità di genere, che è una, se vogliamo, delle più semplici di diversità, chiaramente ci troviamo con delle aziende che sono limitate nelle loro performance. Confesso che diciamo, è un concetto che anche a me come donna all'inizio ha colpito, no? Perché davo per scontato la meritocrazia è meritocrazia e basta, ed è gender independent. In realtà no, in realtà il poter avere le aziende che hanno proprio interno un maggiore così differenza di genere, quindi differenze culturali, ogni tipo di differenza, performano meglio. E noi l'abbiamo visto come, diciamo, come società di consulenza, quello che mi ha permesso di crederci, insomma, anche come donna, è che noi abbiamo sviluppato un sistema che analizza le performance organizzative su 2 dimensioni organizzative delle aziende. Bene, abbiamo visto che le aziende nel mondo che performano meglio economicamente sono le aziende che performano meglio su queste dimensioni organizzative. 9 dimensioni organizzative. Siamo poi scesi nel dettaglio di andare a vedere nelle consigli di amministrazione di queste aziende quante donne c'erano. Bene, nelle aziende in cui c'era una rappresentanza maggiore delle donne nei consigli di amministrazione erano le aziende che performavano meglio. Quindi è così di fatto. Poi ci sono gli psicologi, gli specialisti che vanno ad andare a definire quali sono i motivi, no? Allora hanno una leadership più inclusiva, le aziende che hanno più donne nei loro vertici sono quelle in cui c'è un sistema di valori più condiviso a tutti i livelli e che quindi indirizzano meglio la performance aziendale. Posso? Guardi, la interrompo solo un secondo perché temo di conoscere un pochino la mentalità dei dirigenti delle imprese italiane, non solo quelle editoriali che ho frequentato molto e che sono tra le più razziste in termini di genere. Cioè, io ho effettivamente conosciuto fior di grandi direttori italiani che danno il posto solo a chi gliela dà. Cioè, mi dispiace essere brutale, ma io l'ho conosciuto, mi sono anche fatto licenziare con grande felicità da direttore di questo genere, però esistono. Ma sono convinto che chi a casa, quando sente parlare di leadership inclusiva, dice psicologismi. Allora io faccio un esempio concreto: sono state fatte, da che c'è la grande crisi sui mercati, cioè dall'estate del 2007, oramai in 2 anni e mezzo, abbiamo fatto un fracco di sondaggi e ricerche quali erano i tipi di aziende o i tipi di paesi, di sistema in cui le aziende fallivano di più, oppure quelle finanziarie e gli intermediari finanziari avevano peggiori risultati, maggior rischio di esposizione a salvataggi pubblici, eccetera. Ebbene, quasi tutte queste ricerche confermano che le grandi banche o grandi intermediari finanziari, per esempio, con maggior percentuale di donne nei consigli di amministrazione e in posizione di leadership aziendale, quindi non solo consiglieri indipendenti, tanto per far numero, del CDA, quelle per esempio sono le imprese che avevano una leva finanziaria meno rischiosa rispetto al capitale accantonato e quindi hanno dovuto meno ricorrere all'aiuto pubblico oppure hanno meno fatto fallimento. Perché? Perché esiste anche una diversa, non una minor propensione al rischio, ma una diversa capacità di pensare in termini strategici rispetto agli obiettivi di breve periodo e ai bonus, quelli tanto criticati. Faccio questo esempio concreto perché a casa si capisca che può fare la differenza anche in termini di pensiero strategico per una crescita più sostenibile, perché più capace di guardare al medio lungo. Anche se non bisogna mai ovviamente generalizzare, no? Che dice? No, assolutamente, infatti tant'è che io preferisco sempre parlare di diversità, no? Di diversità, la diversità di genere è senz'altro la prima di queste, il poter lavorare con talenti diversi ci consente di crescere. Io però vorrei lanciarle un altro stimolo, insomma, lei lo saprà meglio di me, sono più di 20 anni che si parla di queste cose. Il termine del soffitto di vetro è stato, come dire, coniato negli Stati Uniti negli anni 80 e siamo ancora qui a parlarne e non è cambiato quasi niente. Secondo me questo è il vero problema. Però anche negli Stati Uniti. Posso dire che su questo secondo me siete troppo poco mordaci, cioè le reti di genere cui fanno convegni, mi levo il cappello di fronte alla IDA, alla Fondazione Bellisario, della Golfo eccetera, ma il problema è delle rotture. Quando io vedo che escono fuori delle proposte, di solito vedo molte delle donne migliori, quelle più arrivate che dicono le quote, che, per esempio a me sono arrivate da che è iniziata la trasmissione molti messaggi che dicono ma come un liberale che è per le quote, e io spiego sempre che la Norvegia come rottura mi serve a fare un salto, perché ci sono delle circostanze nella storia dei paesi in cui o si fa un salto forzato oppure è evidente che si continuano a perdere troppe posizioni, e questo si fa cambiando le regole del mercato del lavoro. Questa è una regola del mercato del lavoro, la questione della biodiversità nella rappresentanza, nella carriera, nell'accesso ai posti, nell'eguaglianza delle retribuzioni, ma anche nell'eguaglianza dei posti di comando. E quindi io sono per cose di questo genere. Di solito però di fronte a questo vedo che molte delle donne arrivate dicono le quote. Non è un po' questo anche il problema? Assolutamente sì, è una degli sguardi. Innanzitutto quando si parla di diversità di genere alle donne, le donne come tutte le minoranze si sentono in difficoltà, perché non è bello essere trattata come una minoranza. Ma non siete maggioranza, maggioranza. Siamo maggioranza nel posto del lavoro, ma non siamo maggioranza nei vertici, anche nei posti come la sanità, l'istruzione, dove il 70% dei dipendenti sono donne e solo il 30% sta nei vertici, no? Quindi assolutamente sì, condivido quello che lei ha detto, ci sono, come dire, no? Capisco che le aziende possono preferire che non ci siano dei sistemi di regolamentazione. Guardi, io adesso devo andare in pubblicità. L'esempio concreto che ho fatto a molte delle mie colleghe nei giornali in cui stavo, quando le vedevo alcune fare carriera e sorridere di fronte al direttore che faceva riunioni in cui trattava temi, dice, usando parole, dice, troie, eccetera, eccetera, li uso per far capire chi è a casa. Ecco, cioè, non so. Ecco, io dicevo, ma perché non vi ribellate? Perché non fate un esposto? Beh, io gli esposti non ne ho mai visti. Ho visto gente che accettava in minoranza e faceva carriera, la maggioranza che piuttosto prendeva la porta e se ne andava. Grande dignità, ma sconfitta, questo è il punto. Eccoci in studio, 8 marzo, stiamo parlando delle proposte concrete e delle analisi che trovate in 3 libri, io vi invito a leggerli, ma cari maschietti, perché capirete perché sbagliate tutto, non perché non siate giusti a dare spazio, perché ci rimettete, stupidi. Primo si chiama La rivoluzione Womanomics, gruppo 24 ore a editarlo, le autrici sono Eva Wittenberg Cox e Alison Maitland, poi La sfida degli outsider, editore Marsilio, Angela Padrone, l'autrice con cui parleremo tra poco, e tra poco parleremo anche con l'autrice del terzo libro, Caterina Soffici, il titolo è Ma le donne no, come si vede il paese più maschilista d'Europa, l'editore è Feltrinelli. 2 telefonate prima, Amalia dalla provincia di Roma, prego Amalia. Buongiorno, volevo dare un contributo. Dica. Siamo uno studio commerciale, siamo tutte donne e vogliamo solo donne. Gli uomini non sono adatti per fare il nostro lavoro. Volevo dare un contributo, tutto qui. Quindi lei dice addirittura non è solo riequilibrio, ci sono delle funzioni per le quali le donne sono meglio e basta, quindi le prendiamo solo in quanto donne. Ma io penso che al di là della reazione che susciterà questa posizione di Amalia, che sarà questa estrema, io penso che molte volte invece serve anche questo, a recuperare e riequilibrare. E attenzione che ci sono davvero poi anche delle funzioni nelle quali, e non sto parlando delle funzioni ausiliarie, tanto per essere chiari, cioè pulire e fare il caffè, ma nelle quali l'atteggiamento verso il cliente quasi sempre e la donna è in grado di svolgerlo meglio. In un'organizzazione d'impresa, in altre parole, poiché esiste una letteratura alta così comprovata per la quale sono le donne nei paesi avanzati a dirigere tra l'80 e il 90% delle scelte di consumo che non riguardano solo i figli, i familiari eccetera, riguardano il portafoglio del risparmio, gli investimenti sul capitale umano, quello per le vacanze, quello per i consumi in generale, forse è meglio che le imprese facciano decidere l'evoluzione dei prodotti a quella facile offerta, sto parlando dell'80-90% a delle donne, perché sono in grado di interfacciare meglio l'evoluzione del mercato. Ora sentiamo che ci dice Patrizia da Vicenza. Prego Patrizia. Io invece vorrei spostare l'argomento sull'orario di lavoro, perché nella nostra realtà le donne ritengono ancora di essere più brave a casa, per cui nel momento in cui si trovano ad avere dei figli chiedono il part time in automatico, per cui o tu le tieni a part time o te ne devi cercare un'altra, perché nella nostra realtà, a noi è successo nella nostra azienda commerciale, la ragazza, la moglie, la madre dopo, nel momento in cui ha il figlio, e niente, è suo il figlio, non è del marito o da dividere, no, è suo, per cui assolutamente a casa il pomeriggio, perché solo lei riesce a seguirlo nella scuola, solo lei riesce a fare questo, solo lei riesce a fare quell'altro. Il datore di lavoro che si trova dopo magari 5-6 anni ad aver costruito una realtà con questa ragazza, ad averla armata, eccetera, o la tiene a part time o deve cercarsene un'altra. Alt, chiarissimo Patrizia. Adesso con le due autrici di Britaliani giriamo questo tema, tra un secondo un'ultima telefonata ancora, perché questa questione degli orari serve da una parte ai signori imprenditori e manager a dire alle signore non ti faccio far carriera e non ti do posto perché appena fai un figlio sparisci, dall'altra però la mia opinione è che noi dobbiamo rendere compatibile il fatto di avere lunghi orizzonti di lavoro, continuare a far lavorare e a dare posti senza per questo essere discriminatori alle donne, perché ci conviene, perché così facciamo più produttività, facendole lavorare di più e facendole prendere delle buone decisioni rispetto a quelle degli uomini. Per questo dobbiamo avere orari esattamente in grado di consentire loro di avere figli all'età giusta, non a 40 anni, magari averne anche 2-3, così il tasso di fertilità diventa sostenibile nella nostra società. E quindi la questione degli orari è, noi dobbiamo consentire, non impedire che avvenga questo, per poi recuperare, secondo me, nel tempo un rapporto di tempo pieno. Però la questione è che a quel punto dobbiamo incentivare e spingere, quasi obbligare per legge, più uomini a fare la propria funzione parentale. In Germania hanno molto cambiato le leggi ultimamente di questo e su questo, tra l'altro è stata una ministra che aveva 7 figli a farlo, secondo me sapeva come si faceva, e su questo, quindi su questo punto degli orari, adesso sentiamo le due autrici, ma io sono dell'idea che bisogna essere un po' tosti nell'intervento, quindi non dire part time serve, va promosso e poi deve tornare al tempo pieno, nel frattempo gli uomini devono anche esercitare le loro funzioni di papà, cioè significa molto mesi in più di quanto di solito facciano alcuni di loro in Italia, e con una percentuale più elevata rispetto al pieno stipendio. Questo significa in concreto. Sentiamo ancora Leonardo da Trieste. Prego Leonardo. Buongiorno. Dica. Io sono un po' controcorrente in quanto sono un imprenditore maschio, il quale... ma in azienda ho mia madre presidente della società e mia sorella parimenti a me amministratore della società. Volevo dire che le donne sono sicuramente più caparbie e più lungimiranti rispetto agli uomini in certi casi. Quello che devo dire è che non sono d'accordo sulla questione della maternità. Il ruolo di madre è molto importante, ma ci sono dei lavori tecnici per i quali ci vuole la presenza costante fisica, e quindi è inutile dire part-time. Se uno lavora in produzione, la produzione ha i suoi tempi, i suoi corsi, e non si può fare part-time il direttore di produzione. No, si possono avere due direttori di produzione. Mi dispiace due su questo. Guardi, su questo, cioè, io conosco. Uno. Guardi, le spiego. No, guardi, conosco l'argomento perché io, insomma, mi sono occupato per anni di questioni di engineering, insomma, in grandi imprese di cantieri. Di solito dare la responsabilità dei cantieri a delle donne è rarissimo ancora nelle imprese italiane, esattamente per quello l'argomento che ha usato lei. Io ho tentato di mostrare a molti miei amici che si occupano di questo che è un grave errore, perché innanzitutto è sempre bene averne due in aziende molto grandi a ricoprire funzioni simili, e non credo che per questo il capo cantiere sposti pesi di centinaia di chili. Quindi è un argomento del quale, guardi Leonardo, io rispetto molto la professionalità di chi ha imprese su questo, ma non mi convince, devo dire la verità. Allora, sentiamo innanzitutto Caterina Soffici sulla questione degli orari, che è una delle poi proposte che avanza al termine del suo volume, ed è una delle proposte che si trova poi anche nel libro di Angela Padrone. Su questa questione degli orari e della potestà parentale dei signori maschietti, come si può intervenire secondo te? Ma allora, io faccio, alla fine del libro faccio una proposta che è abbastanza provocatoria, anzi ne faccio due che sono abbastanza provocatorie, ma come abbiamo detto finora, cioè, secondo me bisogna spingere anche oltre quello che sarebbe lecito e normale, proprio per far capire che la situazione è tragica in Italia, no? Allora io dico, il part-time deve essere dato obbligatoriamente a qualunque persona lo chieda. Io non dico che deve essere dato alle donne, io dico il part-time si dia agli uomini, alle donne, a chiunque lo chiede, per svolgere delle attività di cura che purtroppo in Italia, con questo sistema familista, si dà per scontato che comunque quello che lo Stato non fa, quello che altre strutture dovrebbero fare, penso semplicemente agli asili nido, che non ci sono, perché in Italia non c'è un posto all'asilo nido per ogni bambino sotto i 3 anni. Quindi è ovvio che qualcuno se ne dovrà occupare di questo bambino. Mettiamo anche che il bambino viene dato, si dà per scontato che ci deve stare o la mamma o la nonna o comunque una figura femminile. Questo io devo capire perché, prima cosa. Comunque è un problema culturale, è un problema che andrebbe affrontato, è un tema vastissimo. Ma per quanto riguarda il part-time non è detto che uno dice io mi prendo il part-time e da questo momento divento un lavoratore di serie B oppure un cerebro leso, per cui mi metti a fare un lavoro assolutamente secondario, eccetera. Il part-time può essere chiesto e per un periodo, cioè quando i bambini cominciano ad andare a scuola, quando i figli cominciano a crescere, non è più necessaria una presenza assolutamente continua della madre, e poi secondo me non ci sarebbe bisogno neanche della presenza della madre continua neanche quando sono tanto piccoli, perché io poi ho delle esperienze, io avendo dei bimbi abbastanza piccoli all'elementare, cioè sono in età scolare e all'elementari, io mi rendo conto che non è vera, questa qui è proprio una mentalità italiana, mammona, non è vero che il bambino che ha la mamma a casa, che lo aiuta a fare i compiti, va meglio a scuola di quello che non ce l'ha, non è vero assolutamente, anzi, il bambino che è costretto un po' a arrangiarsi perché poi la mamma arriva casomai più tardi e controlla il compito dopo, si fa furbo, diventa più autonomo, cioè questa è proprio una mentalità italiana che è dura a morire. Ora, oltre a questa questione del part-time, io sono anche, devo dire la verità, sono per alcuni punti che trovo poi anche dettagliatamente nel decalogo, 10 proposte finali del libro di Angelo Padrone, tipo i congedi di paternità obbligatori per i signori padri, obbligatori, ve lo dico proprio esplicitamente, obbligatori, perché credo che anche lì si interviene su questo. Non so se davvero si debba anche ricorrere alla differenziazione delle tasse sul lavoro per genere, è una proposta che trovate non solo nel decalogo del libro di Angelo Padrone, La sfida degli outsider, la trovate sviluppata in un intero volume che sta facendo molto discutere, quello di Alberto Lesina e Andrea Ichino, ed è un libro che viene accusato dai cattolici italiani di essere antifamilista proprio perché dice no al quoziente familiare, sì invece a meno tasse sul lavoro femminile. 8 marzo, donne nelle imprese, donne nel lavoro, 3 libri concreti che vi parlano di proposte e di analisi su questo. Abbiamo fatto una domanda: serve l'introduzione di tasse distinte a favore del lavoro femminile per incentivare quindi il lavoro femminile, come propongono Alberto Lesina e Andrea Ichino, e come propone anche nel suo decalogo finale Angela Padrone. Un'ultima telefonata che ci ho appesa da 3/4 d'ora, mi scuso con Angela che ho richiamato troppo tardi in trasmissione, e Arturo da Isernia. Prego Arturo, che pensa lei dei temi di oggi? Sì, salve, buongiorno dottor Giannino e a tutti gli ascoltatori. Io volevo dare un taglio un po' diverso, faccio una premessa per non sembrare l'orco cattivo. No, che è l'orco cattivo? Tutti i diritti che si danno alle donne sui legali lavori sono ancora pochi, le lo dico perché lavoro con donne che hanno arrivi al ma, perché questo sta di mani messe avanti, ma il problema è quello che le donne fanno quando saltano poi quello di essere semplici lavoratrici, ma diventano manager di aziende e dirigenti. È un problema? È un problema, le porto la mia esperienza personale, dove ho diverse, nella mia scala gerarchica, diverse donne a cui fare riferimento nell'ambito del lavoro, e tra queste c'è si innesca un odio incredibile, una lotta di potere, una cosa che solitamente tra gli uomini si vede per casistica storica, ma che però poi non è poi così atroce come avviene nelle donne. Quindi lei dice che le donne sono più conflittuali tra loro e in questo danno più tempo, più attenzione, quindi fanno meno gli interessi dell'azienda perché sono più atrocemente intente a farsi la guerra? Fanno meno l'interesse anche delle donne stesse, perché poi effettivamente... Posso chiederle in che ramo di attività è l'impresa di cui ha esperienza? Dei servizi, io lavoro nell'ambito dei servizi. Privata o pubblica? È privata o pubblica? Privata, con filiali sparse in tutta Italia. E c'è questo grave problema che, tra l'altro, poi le più colpite da queste donne all'apice sono le donne stesse, dove per qualsiasi maternità... Ma guardi Arturo, io adesso ho capito il tema. Io devo dire, io conosco la letteratura accumulata che dice l'esatto contrario. Questo è, dice l'esatto contrario, non perché le donne siano ireniche, le donne sgomitano tra loro, ma il livello e la modalità del circuito di cooptazione e di eliminazione nel management maschile, che è su criteri di genere, per così dire, in cui la tradizione culturale di diversi livelli manageriali delle diverse storie di impresa nazionale è diversa, è una cosa in cui la cooptazione è secondo regole più comunemente condivisa, e quella femminile a volte si vede di più perché deve superare più asperità. Io comunque conosco una letteratura che dice l'esatto contrario, però anzi, che parla di eccesso di acquiescenza femminile al fatto che bisogna aspettare più anni per avere parità di qualifica rispetto ai titoli e le esperienze maturate nelle aziende. Sentiamo cosa ne pensa Angela Padrone, e la prego di occuparsi poi anche della risposta al tema che abbiamo sollevato, se tassare meno il lavoro femminile e perché in Italia. Prego Angela. Sì, io penso che noi siamo di fronte a una risorsa, ecco perché io nel mio libro parlo di outsider e non soltanto di donne. Noi siamo di fronte a una risorsa che ha uno sguardo diverso, proprio perché in fondo è sempre rimasta un pochino ai margini rispetto alla centralità del potere, diciamo così, perché stiamo parlando di potere, parliamoci chiaro, sì, altrimenti sì, tutti questi discorsi, certo, non li faremo. Abbiamo di fronte un blocco di potere che è gestito in Italia più che altrove dagli uomini, i quali dal loro punto di vista giustamente non lo vogliono mollare. Allora, io invece credo che gli outsider, in questo le donne, i giovani, anche gli immigrati, parliamo anche di questo, hanno una capacità di sguardo diverso sulle cose, per cui molto spesso possono portare innovazione, crescita, idee diverse, un atteggiamento non scontato rispetto alle cose, che io credo che è proprio quello di cui l'Italia ha bisogno, le aziende hanno bisogno, il settore pubblico ha bisogno, proprio perché siamo un paese che ha bisogno ancora di crescere, giusto? Perché siamo, è un po' questo anche il problema dell'Italia. Quando dicevamo, prima si diceva, ma come un liberale crede alle quote? Io sono convinta, anch'io penso che bisognerebbe rompere questo muro, e per rompere le cose alle volte bisogna adottare una strategia d'attacco. Quindi io pure, dopo che sono stata tutta la vita contraria alle quote perché dicevo non voglio essere considerata una specie da proteggere, credo che invece in questo momento sarebbe fondamentale, tanto poi si possono eliminare quando non servono più. Credo che le tasse a favore delle donne, come dicono Alesina e Ichino, possano servire non solo a livello dell'economia per aiutare le donne a stare meglio nel mercato del lavoro, ma anche a livello di potere all'interno della famiglia, perché aiuterebbe le donne ad avere un maggiore potere contrattuale e dire io devo lavorare perché questo economicamente ci conviene, perché molto spesso il problema è anche privato, il potere che le donne non riescono a esercitare nel privato. I problemi sono tanti, è come un cerchio, no, che bisogna in qualche modo aggredire da varie parti per riuscire ad arrivare al cuore. Per cui ecco, c'è tutta una serie. Io credo che sia fondamentale coinvolgere gli uomini, cioè che gli uomini per esempio credano in questa cosa. Allora, i congedi parentali per gli uomini. Nel momento in cui si è uomini e donne, padri e madri, lo si può essere alla pari, quindi anche gli uomini. Guarda, Angelo, io devo dire la verità, Angelo, io quando sento parlare di coinvolgimento di uomini non ci credo molto. A me piacerebbe molto vedere le donne in Parlamento, perché qui si tratta su congedi parentali, sul part time, sulle conciliazioni orarie di lavoro rispetto a esperienze professionali e soprattutto sulle quote in politica e sulle società quotate nei CDA. Qui si tratta di interventi da fare in Parlamento. Avessi visto una volta su temi di fondo le donne dell'opposizione e della maggioranza davvero capaci di non fare la commedia come loro colleghi maschietti, non le ho mai viste, nemmeno quando si trattava del disegno per le opportunità della Carfagna, eccetera eccetera, mai, chiunque fosse il ministro in carica di un colore o dell'altro. Quindi io temo che prima le donne dovrebbero essere capaci di essere unite in politica su questo, fottendosene del colore politico delle coalizioni a cui appartengono, e questa non è la mia esperienza. Quando riusciranno a fare quello, secondo me, Angela, vedrai che gli uomini un pochino si coinvolgono di più, ma fino a quel momento gli uomini vedono che tanto possono dormire con i guanciali uno di qua e uno di là, perché tanto non c'è una rottura, una decisione di rottura. La von der Leyen, che stiamo citando, che ha cambiato la realtà degli orari di lavoro, ha aumentato i compensi e ha obbligato gli uomini a occuparsi anche dei figli, questa signora che aveva 7 figli, faceva parte di un governo democristiano, non stiamo mica parlando di una radicale alla Bonino. Eppure in Germania lei ha cambiato da così a così il dibattito politico. Perché? Perché ci si è messa con una durezza e una coerenza senza pari, e invece le ministre come la Prestigiacomo, la Carfagna eccetera si fanno dire che cosa non bisogna fare e poi magari piangono pure, quando invece bisognerebbe creare uno schieramento dall'estrema sinistra all'estrema destra che dice in Parlamento: cari signori capi partito, si fa come diciamo noi su questo, se siamo in minoranza continueremo a rompervi le scatole nei rispettivi partiti. Allora, io credo in questo, magari mi sbaglio. Caterina Soffici, Mare Donne No, il libro di Angela Padrone, La sfida degli outsider, lo ripeto tante volte perché i titoli dei libri servono a farveli comprare e leggere, perché leggete troppo poco voi in ascolto. Caterina, tra le sue proposte invece mette anche qualcosa che ha a che vedere proprio col dibattito pubblico e col clima culturale del nostro paese. C'è anche una questione: siamo il paese in cui si usa di più il corpo delle donne per la pubblicità, altri paesi hanno cambiato le regole su questo, non ci sono queste cose trasudanti pregiudizio a ogni millimetro quadrato di carta stampata sui muri di tutte le città come da noi. Caterina, è il caso di continuare a battere su questo o si fa la parte dei moralisti cretini? No, questo qui è uno dei capitoli fondamentali, perché questa l'immagine che viene veicolata dalla pubblicità della donna in Italia è un'immagine che entra nell'inconscio delle persone. Quindi quando poi ci sentiamo dire no, ma sono le donne che non vogliono, perché la mentalità è questa, ma chi è che forma la mentalità? Cioè, la mentalità sappiamo benissimo che sono i mezzi di comunicazione che la formano, e le immagini, perché le immagini hanno una potenza che non si può immaginare, cioè appunto la pubblicità in Italia rappresenta la donna in due modi: o è una sorta di velina, una sorta di pantera che deve soddisfare, si deve soddisfare il bisogno sessuale maschile, e questa è la prima parte del quello che si vede per la strada, si vedono qui dei cartelloni con donne, sono sempre nude, infatti c'è un giornalista che si chiamava e c'era il corrispondente del Financial Times che a un certo punto si rende conto, dice: ma io in Inghilterra queste cose non le vedo, cioè come mai in Italia è un paese, e fece un articolo sull'Economist che fece molto scalpore, dice: l'Italia è il paese delle donne nude, perché in effetti è pieno di donne nude che ammiccano, no? E questo qui è già una cosa secondo me assolutamente negativa. E poi l'altra parte è: la donna è sempre in cucina, oppure è la mamma, oppure è secondo lo stereotipo tipico della donna casalinga. C'era una pubblicità che a me aveva fatto un effetto pazzesco, c'era una pila di camicie perfette, tutte stirate, magnifiche, diceva, ora non dico il nome della banca, era una banca. Era una banca, non la diciamo, e diceva: totti italiani soddisfatti dalla mamma dalla e di mamma più dalla totti italiani dalla banca. Allora si dà per scontato. No, ma vedi, però attenta, secondo me tu hai misinterpretato, perché tu ti sei fermato sull'aspetto femminile, la dice lunga su come le banche vogliono tenersi il cliente, cioè più dell'abbraccio melassoso di una mamma, lo vogliono strangolare, cioè è vero quello che dici tu, che quella pubblicità dice lungo sul pregiudizio di genere, ma dice ancora di peggio di come le banche si rivolgono ai clienti. Dunque, ho fatto parlare troppo poco le nostre autrici dei libri, Caterina Soffici, Ma le donne no, Feltrinelli, Angela Padrone, La sfida degli outsider, Marsilio, e abbiamo parlato di questo libro che invece apre ai termini comparati analisi di situazioni e proposte per uscire, Rivoluzione Womenomics, di Eva Wittenberg-Cox e Alison Maitland. Le proposte sono, vedo che suscitano grandi discussioni del pubblico di Radio 24, che a maggioranza non è d'accordo su cambi di legge imperativi per periodi brevi per dare più spazio, più responsabilità, più potere alle donne. Io ringrazio anche Monica Lucarelli di Confindustria Roma e Daniela Scaramucci della McKinsey. Guardate che l'8 marzo chi lo celebra solo per fare chiacchiere questo giorno qua e dimentica tutto il resto fa un pessimo servizio ai suoi figli, e perché l'Italia per crescere di più ha bisogno di fare queste cose di cui abbiamo parlato oggi, e non lo abbiamo fatto solo oggi, appunto. Grazie Pippo Reggi in regia e Alessandro Marco Tulli in redazione, Linea Giornale Radio, appuntamento con me.